Il terzo anello ad alta voce, il circolo Pickwick di Charles Dickens. Capitolo 57, nel quale il circolo Pickwick si scioglie definitivamente e tutto si conclude con soddisfazione di tutti. Per un'intera settimana dopo il felice arrivo di Mr. Winkle da Birmingham, Mr. Pickwick e Sam Weller restarono fuori tutto il giorno, tornando a casa solo per il pranzo, e sempre con un'aria di mistero e di importanza veramente estranea alla loro natura. Era chiaro che si stava preparando qualcosa di molto grave e decisivo. Le diverse ipotesi che si facevano rispecchiavano il carattere di ognuno. Alcuni, tra cui Mr. Tupman, erano disposti a pensare che Mr. Pickwick stesse contemplando l'eventualità di un matrimonio, ma questa idea fu respinta con la massima energia dalle signore. Altri erano propensi a credere che stesse progettando qualche viaggio lontano e fosse attualmente occupato a fare i preparativi necessari. Ma anche questo fu fermamente negato da Sam, il quale, sottoposto a interrogatorio da Mary, affermò inequivocabilmente che nessun nuovo viaggio sarebbe stato intrapreso. Alla fine, quando i cervelli di tutta la compagnia si furono spremuti per 6 lunghi giorni con inutili speculazioni sull'argomento, fu deciso all'unanimità di rivolgersi a Mr. Pickwick per avere una spiegazione della sua condotta e di chiedergli che dicesse chiaramente perché si era così allontanato dalla società dei suoi amici e ammiratori. A questo scopo Mr. Wardle invitò tutti a pranzo alla Delphi e, quando le bottiglie ebbero fatto 2 volte il giro della tavola, aprì la discussione. «Noi siamo tutti ansiosi di sapere», disse il vecchio signore, «che cosa abbiamo fatto per offendervi e per indurvi ad abbandonarci e a dedicare il vostro tempo a queste passeggiate solitarie?» «Davvero?» disse Mr. Pickwick. «Lo strano è che intendevo proprio oggi spiegarvi tutto di mia spontanea volontà. Perciò, se mi darete un altro bicchiere di vino, la vostra curiosità sarà facilmente soddisfatta». Le bottiglie passarono di mano in mano con insolita celerità e Mr. Pickwick, girando lo sguardo sui volti degli amici con un allegro sorriso, proseguì. «Tutti i cambiamenti che sono avvenuti fra noi», disse Mr. Pickwick, «cioè il matrimonio già celebrato e quello che deve celebrarsi, con tutti i cambiamenti che comportano, mi hanno indotto necessariamente a pensare alla questione seria e abbastanza urgente dei miei progetti per il futuro. Ho deciso di ritirarmi in un posticino tranquillo, nelle vicinanze di Londra. Ho visto una casa che corrisponde esattamente ai miei desideri, l'ho presa e l'ho ammobiliata. Ora è pronta per ricevermi e intendo entrarci subito nella speranza di vivere ancora tanto a lungo, da passare molti anni tranquilli, in serena solitudine, rallegrato, finché viva, dalla compagnia dei miei amici e seguito dal loro affettuoso ricordo alla mia morte». Qui Mr. Pickwick si interruppe e un mormorio corse per tutta la tavola. «La casa che ho preso», disse Mr. Pickwick, «è a Dulwich. Ha un grande giardino ed è situata in uno dei più bei dintorni di Londra. È stata preparata con molta cura, perché non manchi nessuna comodità, e forse anche con qualche preoccupazione di eleganza, ma di questo giudicherete voi stessi. Sam mi accompagna. Ho assunto, dietro raccomandazione di Perker, una governante molto vecchia e qualche altra persona di servizio che a lei è sembrato necessario assumere. Propongo di inaugurare questo piccolo ritiro facendovi celebrare una cerimonia alla quale mi sento molto interessato. Desidererei, se il mio amico Wardle non ha nulla in contrario, che sua figlia si sposi nella mia nuova casa, nel giorno in cui ne prenderò possesso. La felicità dei giovani», disse Mr. Pickwick un po' commosso, «è sempre stato il più grande piacere della mia vita. Voglio scaldare il mio cuore allo spettacolo della felicità dei miei più cari amici, sotto il mio stesso tetto». Mr. Pickwick si interruppe di nuovo. Emily e Arabella singhiozzavano udibilmente. «Ho comunicato, a voce e per lettera, coi membri del circolo», riprese Mr. Pickwick, «rendendo loro note le mie intenzioni. Durante la nostra lunga assenza, il circolo ha molto sofferto per dissidi interni, e il mio ritiro, insieme a queste e ad altre circostanze, ha provocato il suo scioglimento. Il circolo Pickwick non esiste più. «Non rimpiangerò mai», continuò Mr. Pickwick con voce più bassa, «non rimpiangerò mai di aver dedicato la maggior parte degli ultimi 2 anni a mescolarmi con le forme e le espressioni più diverse della natura umana, anche se molti avranno forse giudicato frivola la mia ricerca di novità, poiché quasi tutta la mia vita prima di allora era stata dedicata agli affari e al conseguimento della ricchezza». Sono molte le cose di cui non sospettavo nemmeno l'esistenza e che si sono parate all'improvviso davanti ai miei occhi, con vantaggio, spero, della mia intelligenza e miglioramento delle mie capacità di comprensione. Se il bene che ho fatto è ben poco, credo però di non aver fatto del male e spero che tutte le mie avventure non debbano costituire per me che una sorgente di ricordi piacevoli e allegri nel declino della mia vita. Che Dio vi benedica tutti. Con queste parole, Mr. Pickwick riempì e vuotò un bicchiere con mano tremante e i suoi occhi si inumidirono mentre i suoi amici si alzavano tutti insieme per brindare alla sua salute. Il matrimonio di Mr. Snodgrass richiedeva ben pochi preparativi, poiché non aveva né padre né madre ed era stato pupillo di Mr. Pickwick durante la minore età, quest'ultimo conosceva benissimo la sua situazione e le sue possibilità. Ne informò quindi Wardle, che ne fu pienamente soddisfatto. Qualsiasi altra informazione del resto avrebbe avuto lo stesso effetto, perché il buon vecchio traboccava di allegria e di bontà e assegnò ad Emily una buona dote. E il matrimonio fu fissato di lì a 4 giorni, imponendo una tale rapidità di preparativi da condurre 3 sartine e 1 sarto all'estremo limite della pazzia. Lo sposo, che si era trasferito nella casa 2 o 3 giorni prima, ne uscì arditamente dirigendosi alla chiesa di Dulwich per incontrare la sposa, accompagnato da Mr. Pickwick e Mr. Tupman. Sul predellino si trovava Sam Weller, l'occhiello guarnito da un nastrino bianco dono della sua amata, e il corpo chiuso in una nuova sontuosa livrea inventata per l'occasione. Si incontrarono coi Wardle, coi Winkle, con la sposa e le damigelle e coi Trundle, e quando la cerimonia fu compiuta, le carrozze tornarono per la colazione a casa di Mr. Pickwick, dove già il piccolo Mr. Perker li aspettava. Qui, anche le ultime nubi che avevano velato di commozione la parte più solenne della cerimonia, si dileguarono. Ogni faccia brillò di gioia, e non si udirono altro che congratulazioni e rallegramenti. Tutto era così bello. Il prato davanti, il giardino dietro, la serra in miniatura, la sala da pranzo, il salotto, le camere da letto, la stanza da fumo e soprattutto lo studio coi suoi quadri, le poltrone, gli originali stipetti, i tavolini preziosi e i libri a non finire, con una grande finestra allegra che si apriva davanti a un bel prato, dominando un grazioso paesaggio punteggiato qua e là da casette seminascoste fra gli alberi, e poi le tende, e i tappeti, e le sedie, e il sofà. Ogni cosa era così bella, così semplice di linea, così limpida di stile e di gusto, così squisito, dicevano tutti, che davvero non si sapeva che cosa ammirare di più. In mezzo a tutto questo stava Mr. Pickwick, col volto illuminato da tali sorrisi che nessun cuore di uomo, di donna o di bambino avrebbe potuto resistergli. Egli stesso era più felice di tutti, mentre continuava a stringere la mano sempre alle stesse persone e nei momenti di pausa a fregarsi le proprie dalla contentezza e, voltandosi da tutte le parti a ogni nuova espressione di gratitudine o di curiosità e comunicando a tutti il suo piacere e la sua gioia. La colazione è annunciata. Mr. Pickwick conduce la vecchia signora a capo della lunga tavola. All'altro capo si siede Wardle. Gli amici si dispongono sui due lati. Sam prende il posto dietro la seggiola del suo padrone. Le risate e le chiacchiere cessano. Mr. Pickwick, dopo aver reso grazie al Signore, si ferma un attimo a guardarsi intorno e le lacrime gli rotolano giù dalle guance nella pienezza della sua gioia. Lasciamo dunque il nostro vecchio amico in uno di quei rari momenti di genuina felicità che, se li cerchiamo, vengono sempre, prima o poi, a rallegrare la nostra passeggera esistenza. Vi sono ombre scure sulla terra, ma le luci sono più forti per contrasto. Certi uomini, come pipistrelli o civette, hanno occhi migliori per le tenebre che per la luce. Noi, che non abbiamo certi poteri ottici, preferiamo dare l'ultimo sguardo d'addio a questi nostri immaginari compagni di tante ore solitarie in un momento in cui il sole della breve giornata terrena li illumina con tutta la sua luce. È destino di quasi tutti gli uomini che vivono nel mondo e arrivano all'età matura di farsi molti amici sinceri e di perderli nel corso del tempo. È destino di tutti gli scrittori e narratori crearsi amici immaginari e perderli nel corso dell'arte. E non è questa la peggiore delle loro disgrazie, poiché da loro si pretende inoltre che dicano come sono andati a finire. In omaggio a questo uso indubbiamente cattivo, aggiungiamo qualche notizia biografica sul gruppo di persone riunite intorno a Mr. Pickwick. Il signore e la signora Winkle, entrati pienamente nelle grazie del vecchio, si stabilirono poco dopo in una casa di nuova costruzione, a meno di mezzo miglio da quella di Mr. Pickwick. Mr. Winkle, quando si fu impiegato nella City, come agente e corrispondente londinese di suo padre, mutò il suo vecchio costume sportivo con un normale abito inglese e da allora in poi presentò l'aspetto esteriore di una persona civile e di un cristiano. Il signore e la signora Snodgrass si sistemarono a Dingley Dell, dove acquistarono e coltivarono una piccola fattoria, più per passare il tempo che per altro. Mr. Snodgrass, essendo ogni tanto distratto e malinconico, è ancora oggi considerato un grande poeta dai suoi amici e conoscenti, benché non ci risulti che abbia mai scritto qualcosa per incoraggiare questa credenza. Vi sono molti celebri letterati o filosofi o altri la cui grande reputazione non ha origine diversa da questa. Mr. Tupman, quando i suoi amici si sposarono e Mr. Pickwick mise su casa, prese alloggio a Richmond, dove è rimasto sempre fino ad ora. Nei mesi d'estate passeggia continuamente sui bastioni con un'aria giovanile e spavalda che gli ha procurato l'ammirazione delle numerose anziane signore ancora nubili nel vicinato. Non ha più fatto proposte di matrimonio. La signora Bardell affitta le sue stanze a molti signori scapoli e socievoli, con grande profitto, ma non ha più intentato cause per rottura di promessa di matrimonio. I suoi avvocati, i signori Dodson e Fogg, continuano a esercitare la loro professione, da cui ricavano larghe entrate e in cui sono universalmente considerati abilissimi fra gli abili. Sam Weller mantenne la parola e rimase scapolo per 2 anni, alla fine dei quali morì la vecchia governante e Mr. Pickwick promosse Mary al suo posto, a patto che sposasse subito Mr. Weller, cosa che ella fece senza fiatare. A giudicare dal fatto che si vedono spesso al cancello del giardino 2 robusti bimbi, c'è ragione di credere che Sam abbia aumentato la famiglia. Mr. Pickwick è rimasto nella sua nuova casa, impiegando le ore d'ozio a riordinare le sue memorie, che poi ha sottoposto al segretario del circolo un tempo famoso, o ad ascoltare Sam Weller, che legge ad alta voce, facendo quelle osservazioni che gli vengono in mente e che non hanno mai smesso di divertire moltissimo Mr. Pickwick. Al principio fu molto disturbato dalle numerose preghiere di Mr. Snodgrass, Mr. Winkle e Mr. Trundle perché facesse da padrino ai loro rampolli. Ma ci si è abituato adesso e lo fa come una cosa di ordinaria amministrazione. Mr. Pickwick adesso ha qualche acciacco, ma conserva la sua antica gioventù di spirito, e lo si può vedere spesso mentre osserva i quadri della galleria di Dulwich o fa una bella passeggiata nei dintorni in un giorno di sole. Tutti i poveri del vicinato lo conoscono e non mancano mai di togliersi il cappello con grande rispetto quando passa. I bambini lo idolatrano, come del resto tutto il vicinato. Ogni anno si reca una gran festa familiare in casa Wardle e in questa, come in tutte le altre occasioni, è invariabilmente accompagnato dal fedele Sam. E tra quest'ultimo e il suo padrone esiste un affetto forte e reciproco che solo la morte potrà spezzare. Thank you. Alcuni critici hanno osservato che Pickwick, che la narrazione del circolo Pickwick, finisce per così dire, perché si ha l'impressione che il narratore si sia stancato di raccontare, non perché non abbia più cose da raccontare. In effetti, come si sarà capito dall'ascolto di questo straordinario libro, la struttura di Pickwick è assolutamente aperta, potrebbe effettivamente continuare, così come continua la vita, così come continua l'esplorazione della realtà. Tuttavia, durante la narrazione è successo qualcosa di fondamentale, è successo che quello che sembrava appunto una rappresentazione soprattutto umoristica, soprattutto satirica, ha assunto toni via via sempre più gravi, in qualche modo anche patetici, preludendo a quello che sarà la straordinaria peculiarità del Dickens maturo, cioè quella che è stata definita da alcuni una geniale sintesi di giornalismo e melodramma. I toni comici continuano fino alla fine, i personaggi sono sempre fortemente caratterizzati in senso umoristico-satirico e tuttavia a un certo punto, proprio attraverso la scoperta di ciò che avviene, di ciò che anima questa straordinaria trasformazione della realtà in quegli anni, la rappresentazione si fa appunto sempre meno leggera, sempre più grave, e questo tocca il culmine nel momento in cui Pickwick viene incarcerato per debiti. Qui è chiaro che il genio melodrammatico appunto di Dickens si unisce anche forse inconsapevolmente alla sua ai suoi ricordi, alla sua autobiografia. Dickens aveva avuto una giovinezza molto, molto triste, molto difficile, e suo padre, fra l'altro, era stato denunciato e incarcerato per debiti. E quindi ecco che succede a questo punto che Pickwick, da personaggio caricaturale, da macchietta, diciamo così, si trasforma forse al di là della volontà dell'autore in una sorta di eroe, in una sorta di appunto di profeta di un riscatto degli umili, e questo appunto non sarà certamente senza conseguenze sul futuro della grande narrativa dickensiana. Piero Baldini ha letto Il Circolo Pickwick di Charles Dickens, traduzione di Ludovico Terzi, edizioni Adelphi, postfazione di Giovanni Raboni, riduzione di Carlo Talini, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.